Nona stazione. Gesù cade per la terza volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Giovanni. In verità vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Se uno mi vuol servire, mi segua. E dove sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Eccoci, Signore, alla nona stazione. Davanti alla tua terza caduta per il rinnovamento della Chiesa. L'incredulità, l'inimicizia, i tradimenti, tutto si è concentrato sulla Chiesa. Signore, in questi tempi così difficili, fa che non siamo tra coloro che vogliono distruggere la Chiesa. Che non siamo quelli che creano litigi, sospetti e disordine nella tua Chiesa. Fa che non mostriamo un'immagine negativa o diamo un esempio scandaloso. Donaci di provare sempre un amore più grande e fedele per la Chiesa. Gesù, tu ci hai detto che se vogliamo servirti, dobbiamo seguirti. È che per dare frutti dobbiamo essere come il chicco di grano che muore. Donaci la grazia e la forza per imitare i santi, conformandoci alla loro vita consumata alla tua sequela, nella preghiera, nei sacrifici, nell'amore, nella donazione di se stessi. Signore, hai parlato a Francesco d'Assisi dalla croce. Francesco, la mia chiesa sta crollando, va in rovina. Signore, cosa vuoi che io faccia? Ripara la mia chiesa. Oh Dio, apri i nostri occhi affinché possiamo riconoscere come San Francesco la via che porta alla ricostruzione della chiesa. Grazie, Madre, perché hai fatto ritornare il rosario nelle mani dei tuoi figli. Grazie, perché hai messo di nuovo la Bibbia nelle mani e nei cuori dei tuoi cari figli. Signore, fa che la buona novella possa nuovamente risuonare nel nostro cuore e nella nostra vita. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E vedesti il tuo figliuolo così afflitto, così solo, dare l'ultimo respiro.